37. Libertà. Lasciamo per un momento il povero Tom nelle mani dei suoi persecutori e seguiamo la fortuna di Giorgio e di Elisa che abbiamo lasciati in mani amiche nella fattoria lungo la strada maestra. Abbiamo lasciato anche Tom Loker che si agitava tutto e gemeva nel letto del Quacquero, letto di illibata nettezza in cui era stato deposto sotto le cure materne della zia Dorcas, alla quale pareva che egli fosse così poco trattabile come un bisonte infermo. Immaginatevi una donna di alta statura, di un portamento pieno di decoro, con una cuffia di mussolina trasparente che ombreggia le ciocche dei capelli argentei spartiti in mezzo alla larga e placida fronte. Con occhi grigi e pensosi, un fazzoletto di tulle bianco incrociato sopra il suo petto. Il fruscio della sua veste di seta scura è il solo rumore che si oda quando ella si aggira per la camera. Al diavolo! Esclama Tom Loker, cacciando indietro le coperte del letto. Tommaso, io ti invito a non tenere un linguaggio simile, dice la zia Dorcas, rassettando quietamente ogni cosa del letto. Farò il mio possibile, nonna, se pur mi riesce, ma è un caldo così maledetto che non si può fare a meno di bestemmiare. La zia Dorcas toglie un copripiedi dal letto, raggiusta le coperte di nuovo e consolida il tutto in guisa che Tom Loker pare qualche cosa come una crisalide. Io vorrei, amico, che tu cessassi di maledire, di bestemmiare, tenessi una condotta più savia. Corpo del diavolo, e perché volete che io pensi a ciò? Disse Tom Loker. È l'ultima cosa alla quale voglio pensare. Via, via tutta questa roba. Così dicendo, egli si dimenava con tale forza da ridurre il letto in uno scompiglio spaventoso a vedersi. Quel giovane e quella ragazza si trovano qui, suppongo, disse egli dopo un istante con voce stizzosa. Si trovano qui, rispose la zia Dorcas. Farebbero bene ad andarsene al più presto possibile dall'altra parte del lago. Probabilmente così faranno, disse la vecchia, continuando tranquillamente la sua calza. Badate, soggiunse Tom Loker, noi abbiamo corrispondenti a Sandusky, i quali sorvegliano i battelli per noi. Ora non mi importa nulla che lo sappiate. Si salveranno ben essi, lo spero, non fosse altro per far dispetto a Marx, quel vile poltrone, il diavolo se lo porti. Tommaso! Esclamò la zia Dorcas. Ehi, dico, nonna, se impedite a un galantuomo di parlare, finalmente scoppierà, disse Tom Loker. Ma quanto alla giovane, dite loro che la vestano in altro modo perché i suoi contrassegni sono già pervenuti a Sandusky. Essendo nostra intenzione di accomiatarci qui da Tom Loker, dobbiamo aggiungere che dopo aver dimorato per 3 settimane presso i Quaccheri, dove fu preso da una febbre di reuma acuto, la quale venne ad accrescere le altre sue afflizioni, egli si levò dal letto un poco più assennato e prudente che per là dietro. Anziché continuare a essere cacciatore di schiavi, andò a stabilirsi in una delle nuove colonie, dove le sue abilità si mostrarono più felicemente nella caccia degli orsi, dei lupi e di altri abitatori della foresta, e per tal modo si acquistò rinomanza in tutto il paese. Da allora in poi parlò sempre con rispetto dei quaccheri. Brava gente, diceva. Avrebbero voluto convertirmi, ma non vi riuscirono del tutto. Vi assicuro io che sanno curare gli infermi meglio di chiunque altro e fanno minestre e manicaretti gustosissimi. Poiché Tom Loker li aveva informati che i fuggitivi erano aspettati insieme a Sandusky, fu giudicato prudente il separarli. Jim e sua madre furono spediti innanzi 2 giorni dopo, Giorgio, Elisa e il loro figlio trasportati a Sandusky in una carrozza particolare, vi presero alloggio in casa di persone amiche, aspettando l'occasione favorevole di fare per ultimo il tragitto del lago. Se una cosa è gloriosa e cara per una nazione, non lo sarà ugualmente per un uomo, che è la libertà di una nazione se non la libertà degli individui di cui è composta. Che è la libertà per quel giovane seduto con le braccia incrociate sul largo petto, con le guance colorite da un sangue africano e con gli occhi scintillanti di tetro fuoco? Che è la libertà per Giorgio Harris? Per i padri nostri la libertà era il diritto di una nazione, per lui è il diritto di essere un uomo e non un bruto, di chiamar moglie la donna da lui scelta e di proteggerla contro la violenza scellerata. Il diritto di proteggere e allevare il proprio figlio, il diritto di avere una religione e un carattere indipendente dall'altrui volontà. Tutti questi pensieri si agitavano e ribollivano nell'animo di Giorgio, mentre egli, facendo con la mano sostegno al capo, seguiva con lo sguardo sua moglie, intenta a vestire abito maschile per maggior sicurezza. Facciamo ora la grande operazione, esclamò ella, scuotendo innanzi a uno specchio le sue nere trecce lunghe e morbide. È proprio peccato, non è vero, Giorgio? È proprio peccato il far sacrificio di tutto questo. Giorgio sorrise tristemente, né diede risposta. Elisa si voltò allo specchio e le forbici fecero cadere ad una le trecce della sua capigliatura. Ecco fatto, disse ella prendendo una spazzola da testa. Ancora due colpi e sono bella e aggiustata. Ebbene, non ho davvero un viso da giovanotto? Domandò al marito ridendo e arrossendo nel tempo stesso. In qualunque modo, disse Giorgio, tu sei sempre bella, mia Elisa. Perché tanto pensoso? Disse lei, avvicinandosi a lui. Non siamo più che a 24 ore dal Canada, come accertano, un giorno e una notte solamente sopra il lago e poi, oh, poi. Ah, Elisa, esclamò Giorgio traendola a sé, questo è il gran punto. Ora ci avviciniamo alla meta e ne dipenderà la mia sorte. Essere così vicino all'intento bramato e qui perdere tutto. A questo colpo non reggerei, Elisa. Non temere, caro, disse la donna. Iddio non ci avrebbe condotti fin qui se non volesse trarci a salvamento. Mi par di sentire che egli è con noi. Tu sei una donna benedetta, Elisa, disse Giorgio abbracciandola con una stretta convulsa. Ma dimmi, speri che una tale grazia ci verrà concessa? Vedremo la fine di questi lunghi anni di miseria. Saremo liberi. Ne ho certezza, Giorgio, disse Elisa guardando in su, mentre lacrime di speranza e di letizia bagnavano le sue lunghe e nere ciglia. Sento in me che oggi stesso Iddio ci deve liberare dalla schiavitù. Si aprì l'uscio e una donna rispettabile e matura di anni entrò, conducendo Enrichetto vestito da fanciulla. Oh, che bella bambina! Esclamò Elisa voltandolo e rivoltandolo. Le porremo nome Enrichetta. Il fanciullo stette gravemente a guardare sua madre nel nuovo e strano suo vestire, la osservava in silenzio e tratto tratto sospirava. Enrichetto, non riconosci più la mamma? Disse Elisa tendendogli le braccia. Il fanciullo si strinse timidamente alla donna che lo aveva condotto. Via Elisa, perché vuoi fargli delle carezze mentre sai che bisogna staccarlo da te? Sì, sono pazza, è vero, ma soffro troppo nel doverci, benché momentaneamente, separare. Su via, dunque, qua è il mio mantello, Giorgio, insegnami come lo portano gli uomini. Si deve portare così, disse Giorgio, mettendoselo sopra le spalle. Così è, fece Elisa, imitando la mossa. Ora bisognerà che io batta bene il tacco e muova passi più lunghi, prendendo un'aria insolente. No, no, disse Giorgio, non ti ci provare, sii sempre un giovane modesto. Ti sarà più facile rappresentar bene un tale carattere. E questi guanti? Misericordia, le mie mani ci si perdono. Ti consiglio di non cavarli mai. La tua mano delicata basterebbe a rovinarci tutti, disse Giorgio. Ora a noi, signora Smith, egli soggiunse. Resta inteso che voi ci accompagnate nel viaggio e siete la zia di questa ragazzina. Ho saputo, disse la rispettabile signora, che tutti i capitani di piroscafi hanno ricevuto i contrassegni di un uomo e di una donna con un bimbo. Certo, replicò Giorgio, ma spero che questa volta aspetteranno un bel pezzo. In quell'istante il legno giunse alla porta di casa. La famiglia amica che aveva dato ricovero ai fuggiaschi li attorniò mentre vi si collocavano e disse loro affettuosamente addio. La vettura si incamminò alla spiaggia. I due giovani si fecero innanzi per salire sul piroscafo. Elisa dava il braccio con galanteria alla signora Smith, mentre Giorgio attendeva ad imbarcare le loro robe. Quando fu a prendere i biglietti presso l'ufficio del capitano, udì i due uomini che discorrevano presso di lui. Ho esaminato tutti quelli che sono venuti a bordo e so di certo che non si trovano qui. In tal modo parlava lo scrivano del piroscafo. E il suo interlocutore era Marx, di nostra conoscenza, il quale con la sua perseveranza squisita andava fino a Sandusky in traccia delle vittime da divorare. È assai difficile, disse Marx, distinguere la donna dalle bianche. L'uomo poi è un mulatto di carnagione molto chiara e gli porta la lettera H stampata a fuoco sulla mano destra. La mano con cui Giorgio prendeva il biglietto e il suo resto del denaro tremò un pochino, ma voltatosi freddamente, diede a colui che parlava uno sguardo di indifferenza e s'avviò di passo lento all'altro lato del piroscafo dove Elisa lo attendeva. La signora Smith con Enrichetto, rimase nel camerino riservato alle donne e quivi la bruna bellezza della supposta fanciullina ebbe lodi dalle viaggiatrici. Quando suonò per l'ultima volta la campana di avviso, Giorgio ebbe la contentezza di veder Marx tornare alla riva e quando il battello ebbe posto tra loro un'insuperabile distanza, egli mandò un gran sospiro, come se un carico immenso gli fosse stato tolto dal petto. Era una giornata splendida. Le acque azzurre del lago Erie scintillavano al sole, increspate dalla fresca brezza spirante da terra, e la bella nave solcava gagliardamente le onde. Oh, qual mondo ignoto può racchiudersi in un cuore umano? Chi, vedendo Giorgio passeggiare tranquillo e disinvolto sulla tolda del piroscafo col suo timido compagno a fianco, avrebbe mai sospettato i sentimenti che s'agitavano nel suo petto? La suprema felicità a cui muoveva incontro, avvicinandosi, gli sembrava troppo grande, troppo ammaliante perché potesse essere reale, e un geloso timore lo angosciava che di momento in momento qualche cosa dovesse sorgere a strappargliela. Ma il piroscafo rattamente scorreva e alfine apparvero in chiara luce le benedette sponde inglesi, sponde di magico prestigio al tocco delle quali svanisce ogni eco di schiavitù, qualunque sia il linguaggio che la dichiari legittima e il potere nazionale che la confermi. Giorgio tenevasi Elisa a braccetto mentre il piroscafo si avvicinava alla piccola città di Hammersburg, nel Canada. Il suo respiro diventò affannoso, i suoi occhi si velavano, gli strinse tacito la mano gentile che gli si appoggiava tremante sul braccio. Suonò la squilla, il piroscafo si arrestò. Senza saper bene quel che facesse, Giorgio radunò il suo bagaglio e i compagni e la piccola comitiva sbarcò. I fuggitivi rimasero quieti e silenziosi finché il piroscafo si fu allontanato, poi con lacrime e amplessi il marito e la moglie, stringendosi al seno il bimbo stupefatto, caddero in ginocchio sollevando i loro cuori a Dio. Avresti detto che passavano dalla morte alla vita, dal sudario della tomba alla veste celeste, che l'anima loro, così lungo tempo in balia alle passioni, strappata finalmente dai pesanti ceppi del peccato, trovava lungi da questo mondo graziosa accoglienza. Era l'ora in cui la provvidenza dischiude le auree porte e pronunzia sublimi parole. I nostri viaggiatori furono ben presto condotti dalla signora Smith all'ospitale e abitazione di un buon missionario che la carità cristiana pose quivi per essere il pastore dei proscritti e degli sventurati che continuamente vanno a cercare un asilo su quelle sponde. Chi potrebbe esprimere le dolcezze di quel primo giorno di libertà? Noi abbiamo cinque sensi, ma il senso della libertà non è forse un sesto senso più squisito e più nobile degli altri cinque? Muoversi, parlare, respirare, andare innanzi e indietro senza occhi che ce li invigilino e senza alcun pericolo, chi potrebbe esprimere le benedizioni del riposo che scende al capezzale dell'uomo libero, protetto da leggi che gli assicurano i diritti concessi da Dio all'uomo? Oh, quanto bello e prezioso per Elisa era il volto di quel fanciullo addormentato, reso ora più caro per la memoria di mille pericoli. La troppa felicità rendeva impossibile il sonno. Eppure i due sposi non avevano né un tetto che potessero dire loro proprio, ed era speso tutto il denaro, essi non possedevano più di quanto posseggono gli uccelli dell'aria e i fiori dei campi, e con tutto ciò nulla poteva uguagliarsi alla loro contentezza. E voi, che togliete all'uomo la libertà, come risponderete quando ve ne sarà richiesto conto? 38. La vittoria. Nel corso della nostra vita vi sono certi istanti in cui ci pare più facile morire che vivere. In faccia a una morte piena di atroci spasimi e di orrore, il martire trova in quei sentimenti stessi uno stimolo e un conforto. Vi attinge un eccitamento vivissimo, un fervore così grande da sostenerlo in quella tremenda crisi che gli fa fare un passo di più verso l'eterna gloria. Ma languire giorno per giorno in una pessima, degradante e monotona servitù, sentire ciascuno dei propri nervi agghiacciarsi e indebolirsi, ciascuna facoltà spengersi a poco, un lungo martirio del cuore straziato da cui la vita si parte a gocce e di ora in ora, questa è la prova più difficile a cui possa assoggettarsi creatura umana. Fino a che Tom fu al cospetto del suo persecutore e udì le minacce e credette che l'ultima sua ora fosse imminente, il cuore gli batté più animoso e gli pareva facile sopportare le pene della tortura e del fuoco. Poiché sentiva la presenza soccorrevole e divina e il cielo immediatamente vicino, ma quando il suo padrone non era più colà e quando la momentanea eccitazione era dileguata, tornava il dolore delle ammaccate membra e insieme il sentimento dell'abbandono, della degradazione e della sua disperata miseria. Perciò la giornata gli parve ben lunga. Assai prima che le sue piaghe fossero rimarginate, l'egregio gli comandò di rimettersi al lavoro nei campi. E allora ricominciarono per lui giorni di angosce e di fatiche aggravate da ogni sorta di ingiustizie e di enormità che la malevolenza di un uomo perverso e vile può inventare. Chiunque di noi provò il dolore fisico, benché alleviato da tutte le cure che noi usiamo, conosce l'irritazione che ne risulta. Tom non si meravigliava più che i suoi compagni fossero abitualmente cupi e ringhiosi, già che la stessa sua natura, placida e gioviale, mantenutasi inalterabile fino allora, veniva talvolta con suo dolore invasa e violentata dal loro stesso male. Egli si era lusingato di avere almeno qualche momento di riposo da dedicare alla lettura della Bibbia, ma là non si riposava mai. Nel culmine della stagione, l'Egre non esitava punto a far lavorare i suoi neri la domenica come gli altri giorni della settimana. E perché no? Così otteneva maggior copia di cotone e vinceva la sua scommessa. E se anche qualche schiavo finiva col soccombere, egli ci aveva guadagnato tanto da comprarne di migliori. Da principio, Tom soleva, tornato la sera dai campi, leggere alcuni versetti della sua Bibbia al fioco incerto lume del fuoco, ma dopo il crudele trattamento inflittogli, giungeva a casa tanto esausto di forze che quando si provava di farlo gli girava il capo e gli si offuscava la vista, ed egli era costretto a buttarsi giù come gli altri, totalmente sfinito. La fede che fino allora l'aveva sostenuto vacillava sotto la pressione del dubbio e la mente dell'infelice si perdeva nelle tenebre. Il più oscuro problema di questa vita misteriosa tornava continuamente al suo pensiero: le anime oppresse e minate, il male trionfante, il silenzio di Dio. Seduto una sera, in grande abbattimento presso i carboni mezzo estinti dove si cuoceva un po' di misera cena, egli gettò alquanti virgulti sul fuocherello, si sforzò di destare la fiamma e trasse di tasca la sua logora Bibbia. Qui si trovavano quei passi da lui contrassegnati che tante volte gli commossero fortemente l'anima. Parole di patriarchi e di veggenti, di poeti e di savi che dai tempi remoti infusero coraggio nell'uomo, voci di quel gran nugolo di testimoni da cui siamo circondati nella battaglia della vita. La Bibbia aveva perduto la sua forza o non poteva l'occhio indebolito e l'affaticato senso rispondere più a lungo al contatto di quella potente ispirazione. Egli ripose il libro in tasca, sospirando mestamente. Un riso brutale lo scosse. Tom alzò lo sguardo e vide l'Egre che gli si era posto dinanzi. Or via, fanciullone invecchiato, disse egli. Tu trovi, mi pare, che la tua religione non lavora più. Ah, ero ben certo io che l'avrei fatta partire dalla tua capocchia lanosa. Questa beffa crudele riuscì a Tom più amara del freddo, della fame e della nudità. Egli non rispose. Tu eri un pazzo, continuò Legre, perché io avevo, quando ti comprai, buone intenzioni su te. Avresti potuto essere più in favore che Sambo e Kimbo, e invece di toccarne ognuno 2 giorni, l'avresti fatta da padrone, e ti sarebbe stato concesso più e più volte un buon bicchiere di Pons Gagliardo. Su, via, non ti par meglio di essere ragionevole una volta? Or su, getta nel fuoco quel vecchio fascio di carte e riunisciti alla mia chiesa. Dio me ne guardi, esclamò con fervore Tom. Tu vedi bene che Dio non si muove per aiutarti. Se un Dio vi fosse, non avrebbe consentito che tu cadessi nelle mie mani. Cotesta tua religione non è che un cumulo di frodi. Me ne intendo io. Faresti meglio badare a me. Io sono qualcuno e posso far qualcosa. No, padrone, rispose Tom. Io mi terrò fermo al Signore. Mi aiuti egli o no, ricorrerò sempre a Lui e crederò in Lui fino all'ultimo fiato. Tanto peggio per te, disse lo stolto e brutale uomo, sputandogli in viso e respingendolo col piede. Non dubitare, ti farò io abbassare la fronte e starmi soggetto, vedrai. Così dicendo, Legret gli voltò le spalle. Quando un peso tremendo opprime l'anima fino al grado a cui può giungere l'umana pazienza, vi è un istante in cui uno sforzo disperato di ogni nervo, fisico e morale, tenta di respingere quel peso da sé. Perciò spesso accade che le più crudeli angosce precedono un riflusso di gioia e di coraggio. Così avvenne per Tom. Gli empi di leggi del barbaro padrone abbatterono totalmente l'anima sua scoraggiata e benché la sua mano stringesse ancora l'eterna roccia della fede, era uno sforzo ultimo e disperato. Tom sedeva come uno stupido presso al fuoco. A un tratto ogni cosa intorno a lui sembrò dileguarsi ed egli ebbe una visione dell'uomo coronato di spine, oltraggiato e sanguinante. Tom stava ammirando con trepida venerazione la maestosa pazienza di quel viso e il tenero sguardo di quegli occhi agitò il cuore di lui fino al fondo. Egli cadde ginocchioni con le mani protese alla visione celeste e sentì l'anima sua ridestarsi. La visione gradatamente cambiò. Le acute spine si mutarono in raggi di gloria e tra uno splendore ineffabile egli vedeva quello stesso volto abbassarsi verso lui, pieno di commiserazione, e quindi intese una voce. Quegli che vincerà sederà meco sul mio trono, come io vinsi e siedo sopra il trono del Padre mio. Alzò quindi gli occhi a quelle silenziose, invariabili stelle, immagini dei custodi angelici dagli sguardi sempre inclinati verso l'uomo, e la solitudine della notte risuonò delle trionfali parole di un inno che per l'addietro, in più felici giorni, egli aveva cantato. Non mai però con tal forza di sentimento. Sia disciolta la terra qual neve, di risplendere il sole cesserà, ma quel Dio che lassù mi riceve, mio tesoro, in eterno sarà. Quando, tronco di vita, lo stame più non battano i polsi ed il cuore, m'è concessa oltre il denso velame una vita di pace e di amore. Sì, vedrai 100 secoli e 100 sopra l'alme felici passare e il Dio sommo che tutto ha redento, torneremo più festosi a lodare. Coloro che conoscono i costumi religiosi degli schiavi sanno come frequentemente succedano fatti simili a quello testé raccontato. Noi, anzi, ne raccogliemmo dalla loro bocca dei commoventissimi. La psicologia ci parla di uno stato in cui le commozioni e le immagini della mente predominano con tale potenza da ridurre in loro signoria i sensi e far loro dare forme tangibili alle ideali rappresentazioni interne. Chi è in grado di misurare fino a quel punto lo spirito che tutto penetra, possa servirsi di queste facoltà della nostra natura mortale e di conoscere le vie divine attraverso le quali scende a sollevare la provvidenza e consolare le anime abbattute degli afflitti. Se il povero schiavo negletto crede che Gesù gli è apparso e gli ha parlato, chi oserà contraddirlo? Non disse egli che la missione nei secoli era quella di sanare i cuori spezzati e liberare i cuori oppressi? Quando i primi albori risvegliarono gli schiavi per ricondurli all'opera, uno vi fu tra quei meschini coperti di cenci e con le membra intirizzite che camminava di passo fermo e lieto, poiché più salda della terra era la sua fede nell'amore dell'Eterno e dell'Onnipotente. Alegre! Fai pure esperimento di tutte le tue forze. La suprema agonia, la tristezza, il degradamento, la spoliazione e la perdita di ogni cosa non potranno che affrettare l'ora in cui quest'uomo sarà cinto dell'immortale corona. Fin da quel momento l'umile cuore dell'oppresso fu circondato di un'impenetrabile atmosfera di pace. Il Salvatore, presente quivi di continuo, lo aveva santificato come un tempio. Non più terrestri rammarichi, non più l'alternarsi della speranza col timore. La volontà umana, indebolita da tanti strazi e combattimenti, si è ormai unificata del tutto a quella divina. Così breve gli pareva ora il resto del suo pellegrinaggio della vita, così vicina e così vera l'eterna beatitudine, che le miserie e le angosce più gravi della vita cadevano dinanzi a lui, disarmate. Ognuno si avvide di questo cambiamento. Egli aveva riacquistato la sua operosità e l'allegria di prima, e con esse una tranquillità che né le villanie né le ingiurie potevano turbare o rapirgli. «Che diamine è accaduto a Tom?» disse Legree a Sambo. «Pochi giorni fa stava tutto mogio e melenso ed ora è vispo come un grillo.» «Non so, padrone», rispose Sambo. «Forse egli pensa a svignarsela.» «Oh, avrei caro che lo tentasse!» esclamò Legree con un ringhio selvaggio. Sambo, se lo tentasse!» «Ah, per questo, davvero!» rispose l'orribile gnomo. «Che festa vederlo affondarsi nel fango e aggrapparsi ai cespugli, coi cani alle calcagna. Fui già vicino a crepar dalle risa quando raggiungemmo Molly. Credevo che i cani l'avrebbero fatta a pezzi prima che potessi allontanarli, e la porta ancora i segni dei loro denti.» «E li porterà finché vive», replicò Legree. «Adesso Sambo sta allerta, spalanca bene gli occhi, e se questo nero tenta qualche cosa di simile, dagli tosto il gambetto. Il padrone lasci fare a me, mentre io saprò cogliere la lepre.» Questo dialogo succedeva mentre Legree montava in sella per recarsi alla città vicina. Tornato a sera, Legree pensò di fare un giro nei quartieri per esaminare se ogni cosa fosse in ordine. Faceva un bellissimo chiaro di luna. Le ombre del grazioso fogliame dell'albero di cina si disegnavano nettamente sulle zolle fiorite. Il cielo aveva quella soave serenità che pare un delitto turbare. Mentre Legree si avvicinava ai quartieri, gli giunse un canto agli orecchi. Era cosa insolita in quei luoghi. Egli si fermò ad ascoltare. Una voce melodiosa di tenore cantava: «Quando leggo la mia ricompensa scritta a note di fiamma lassù, quella tema che in cor mi si addensa, caccio e l'occhio non lacrima più.» «Ah, ah!» esclamò Legree tra sé. «Ecco a che cosa pensa costui. Oh, come io detesto quei maledetti inni metodisti!» «Prendi, vecchio nero!» esclamò poi, lanciandosi d'improvviso sopra Tom con la frusta alzata. «Io ti insegnerò a fare un tale schiamazzo quando già dovresti essere a dormire. Chiudi la tua vecchia ganasce e torna subito al tuo covo.» «Sì, padrone», rispose Tom con lieto viso e si alzò per andar via. Legree, esasperato all'evidente felicità della quale il nero godeva, gli tenne dietro e si diede a percuotergli con la sua frusta il dorso e le spalle. «Prendi, cane, e vediamo se dopo queste continuerai a essere così allegro.» Ma quelle percosse non cadevano ormai che sul corpo, e non più come prima, sul cuore. Tom restò sommesso interamente, eppure Legree vedeva bene che in un modo o nell'altro il suo potere sopra il suo schiavo era svanito. Alla fine di questa lettura, come Scuola delle Donne, ci sentiamo in dovere di rievocare e onorare due grandissime antenate che, proprio come Gesù, accettarono il supplizio per non rinnegare la loro fede e la loro missione. Marguerite Porete e Malfreda da Pierovano, entrambe beghine dalla vita irreprensibile dedicata al servizio e all'abnegazione di sé, entrambe bruciate sul rogo proprio da quella chiesa che da Gesù pretendeva di discendere. Margherita e Malfreda, di cui la nostra scuola si è tanto occupata, sono entrambe presenti mentre leggiamo della visione che Tom riceve e che lo restituisce alla sua salda fede.